Ce li hanno fatti vedere in ogni modo, simili, cappotti quasi uguali, sorrisoni, moglie e figli a fianco. Il nuovo staff presidenziale degli USA si è insediato col favore delle telecamere, fuochi d'artificio e le spese per la festa, che hanno attirato parecchie polemiche della stampa. E per la stampa è stato quasi obbligatorio non fare cenno all'impaccio della figlia dodicenne dei signori Clinton. Qualcuno li aveva avvisati per tempo. Del resto, chi di noi a 12 anni, sbattuto sul palco più importante del mondo, sarebbe stato all'altezza della scena? Forse in quel caso Chelsea sarebbe stato davvero un mostro. Ma dei Clinton si sono però saputi altri dettagli privati, se non addirittura intimi. Hillary sa fare i biscotti di avena, Bill ama la cucina del sud degli States. Un buon segno. Se parlerà come mangia, forse sarà davvero comprensibile. La cucina del sud degli Stati Uniti raccoglie le tradizioni dei popoli che hanno attraversato e colonizzato queste terre. Troviamo il chili e la ricotta. Uno proviene dalle terre messicane, l'altro appartiene a una tradizione, a una cultura assolutamente europea, una cultura casearia. Saper fare aromi e formaggi dimostra come un popolo sia capace di usare al meglio le proprie risorse. Dal latte si possono ricavare tantissime cose, anzi non bisogna buttarne via nulla, non bisogna sprecarne. Il siero ricotto diventa un formaggio e alla fine del liquido rimasto ne viene ancora utilizzato qualcosa. Alcune minestre del centro Europa lo hanno come ingrediente, oppure viene usato per nutrire gli animali. Tutti i popoli che hanno avuto a che fare con la pastorizia hanno imparato a sfruttare il latte, il magico liquido bianco, fino all'ultima goccia, prezioso ma difficile da conservare. E chi invece aveva a che fare in altre parti del mondo col caldo, la difficoltà di conservazione dei cibi, la povertà, ha imparato nei secoli a usare gli aromi, le spezie e il sale con abilità. Il chili è una preziosa mistura, non solo forte ma profumata, che aiuta a digerire carni difficili, cotte a lungo e mescolate anche con fagioli, raccolti in tempi antichi chissà come. Mi piace sapere che questi piatti finiranno nel menù della Casa Bianca e vorrei anche immaginare che chi apprezza questi cibi, se diventati nei secoli di una tradizione mista, sia capace di vedere la mescolanza di culture che vi hanno dato origini. Questa volta vorrei davvero pensare, poter pensare e sperare che il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, ragioni così come mangia. Can't, perché se tante braie forti.